Ciao a tutte e tutti, questa è la nuova puntata di Uru, la trasmissione che parla di suoni, musica africana e anche qualche notizia. State ascoltando quindi Radio Wombat, vi ricordo i nostri social, il sito wombat.noblogs.org, da dove potete ascoltare anche i podcast di tutte le trasmissioni precedenti, twitter.com/radiowombatfi, per parlare con noi posta wombat@insiberia.net. Vi ricordo anche che Uru ha un proprio profilo Twitter che è uru-rw-radiowombat. E che la trasmissione va in replica la domenica mattina alle 10 e il lunedì alle 15. E quindi 34ª puntata di Uru dedicata interamente alla musica proveniente dal Kenya. Ecco, una musica che è molto diversificata a seconda delle numerosissime etnie del Kenya, tant'è che ognuno ha una propria tradizione musicale e nonostante l'occidentalizzazione del Kenya, la diffusione di generi popolari, come dire, importanti, ecco, come per esempio il gospel. Nonostante ciò, una certa parte, cioè specialmente nelle zone rurali e presso popoli, come dire, etnie tradizionalmente più isolate, come per esempio i Mikenda o i Turkana, che stanno a nord, ecco, vicino, anzi, nella zona del lago Turkana, quindi nella zona confinante del Sudan, ecco, in queste zone ancora ci sono, anzi, la stragrande maggioranza della musica suonata, ascoltata e ballata è musica tradizionale, diciamo quella che fa riferimento e che comunque proviene dalle radici dei popoli che appunto la suonano e che lì ci abitano. Una musica che, come molto spesso nell'Africa subsahariana, dà molta enfasi a ritmi complessi e soprattutto a strumenti a percussione in particolar modo, ecco. E comunque sia, oltre ad avere ogni etnia, diciamo, una propria particolare musica, ogni etnia ha anche una propria particolare strumenti musicali, o meglio, tutti suonano praticamente tutti gli strumenti, ecco, però ogni etnia ha un proprio strumento tradizionale che viene tuttora utilizzato, come per esempio il pakrok dei Luo, per esempio. Quello che invece è esteso, è diffuso in tutto il Kenya e che, come dire, fa pensare che, per esempio, il rap sia non tanto di importazione, ma bensì di esportazione, cioè che prima c'è stata una sorta di rap keniano, a cui poi successivamente, anche magari per tradizioni, radici ancestrali e via dicendo, è che molto spesso la musica tradizionale keniana è una sorta di vede una sorta delle sorte di competizioni o comunque una chiamata e risposta. Ecco, quello che invece è il genere musicale propriamente keniano e che è diffuso in tutto il Kenya, ma anche nei paesi confinanti, è il benga, questa sorta di musica che per esempio chi viaggia in Africa, specialmente con i trasporti pubblici, in treno, ma specialmente gli autobus, questi autobus che percorrono centinaia e centinaia di chilometri da una città a un'altra città, ecco, è 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il benga che risuona nell'autobus e quindi insomma che rintrona a volte nell'autobus, ecco. E come quasi tutte le musiche tradizionali africane, anche quella keniana è intesa come accompagnamento molto spesso di eventi sociali, in particolar modo riti religiosi, feste, competizioni sportive. E la musica Luo, per esempio, parliamo della musica Luo perché Luo è l'etnia, diciamo, più diffusa, l'etnia maggioritaria in Kenya. Per esempio, comprende una vasta gamma di sottogeneri associate a diversi momenti della vita del villaggio. Per esempio, il Teoburu, che è una un tipo di musica, di suoni, viene usata a funerali, un altro viene usato nelle feste, l'altro durante i riti religiosi e via dicendo. Mentre invece un'altra etnia, tra le più, come dire, tra le più presenti in Kenya, è nota per le walk song, questa sorta di blues spirituale in cui le donne scandiscono il lavoro nei campi. E come abbiamo detto, predominano le percussioni, in particolare i tamburi tipici delle culture bantu, e quindi non soltanto in Kenya, ma anche gli strumenti a corde, i cordofoni, come per esempio il nyatiti, che è una lira a 8 corde, lo rutu, e via dicendo. E stasera appunto vi facciamo ascoltare alcuni pezzi di musica keniana che sostanzialmente si rifanno alle tradizioni della musica keniana, che però nello stesso momento non sono state riattualizzate sia da un punto di vista strumentale che da un punto di vista dei testi, ecco, diciamo così, alla contemporaneità. E partiamo con una donna che ha saputo fondere la musica tradizionale keniana, lei è dell'interno del Kenya, di Kisumu, quindi tradizionale, la musica tradizionale, a ritmi contemporanei. Da piccola ha cominciato a suonare la chitarra, ha viaggiato molto e questo l'ha aiutata nel riuscire ad apprendere i suoni più internazionali, diciamo, e faceva parte di un gruppo che si chiamava Divas del Nilo, composto esclusivamente da donne, da quattro donne. Ha partecipato al Social Forum a Nairobi proprio con la voce e con la sua persona. È molto attiva nel sociale, in questo senso. Quindi di lei sentiamo Kisumu 100. Tera de ane Kisumu, aya, aya, aya, dimuna de, aya, dongo gelo Kisumu, aya, tera de aba Kisumu, aya, tera de aba Kisumu, Kisumu bear. It's here at your back, it's sumo. It's sumo bear, it's sumo. It's here at your back, it's sumo. Ay, ay, it's here at your nepa joe. Ay, ay, it's here at your nepa joe. Ay, ay, it's here at your nedala. It's sumo bear, it's sumo. It's here at your nepa joe. It's sumo bear, it's sumo. It's here at your nedala. Take Aido, Tera Winam, yeah. Aido Gary, Tera, Tera we got. Take Aido, Tera Kisumu. Aido Meli, Tera Winam. Boda Boda, Swoya Kondele. Anna Duaro Kenda, Ongengama Tera. Anna Duaro Kenda. Ongenga matera, bini dong jadala, bini dong jatelo, bini dong osiepna, bini dong jadurwa, bini dong jadala, bini dong jatelo, bini dong osiepna, bini dong. Ayaye, tera diaba Kisumu. Ayaye, tera diaba Kisumu. Boda boda, soya kondele. Tera de ane Kisumu. dwaro kenda onge ngama tera ana dwaro kenda onge ngama tera bini dong jadala bini dong jadalo bini dong osiepna bini dong jaturwa bini dong jadala bini dong osiepna bini dong Omena mit kibuye etera diane kisumo muta mit kibuye etera diane kisumo ngege mit manyata yawa etera diane kisumo obambo mit yawita etera diane kisumo bini dong jadala bini dong usiepna bini dong aye aye aye aye Mama yo, alagi baba yo, yo do yo malomo, dungu gero kisumo ya ite. Anagomba diane kisumo, kenda gomba diane lolwe, Victoria, alagi mama yo, Victoria, alagi baba yo. Anagomba diane kisumu Twendeni tujenge kisumu Wageni karibu kisumu Mi wanapamba pia tupande Mi wanapamba pia tulime Tubune vizuri Mi wanapamba pia tupande mi wanapamba pia tulime tubune vizuri denga ido tera wina yeah. Aido gari tera we got tera diane kisumu toka ido tera kisumu tera diane kisumu aido meli tera wina tera diane kisumu boda boda soya kondele tera diane kisumo anna dwaro kenda onge ngama tera anna dwaro kenda onge ngama tera bini dong jadala bini dong osiepna bini dong jaturwa bini dong jadala bini dong jadala bini dong osiepna bini dong Bini dong jatura bini dong Bini dong jatala bini dong Bini dong jatala bini dong Bini dong usifna bini dong Bini dong jatura bini dong Bini dong jatala bini dong Bini dong jatala bini dong Sì, come dire... Parlando del Kenya, è importante, non si può non dare un cenno rispetto a quelle che sono state le elezioni in Kenya proprio in questi ultimi mesi e tra l'altro proprio ieri pomeriggio Kenyatta è stato dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali del 26 ottobre scorso, quindi proprio pochi giorni fa. Che a sua volta erano un rifacimento di quelle annullate l'8 agosto scorso per illegalità e irregolarità commesse durante il processo elettorale. Quindi una tornata elettorale veramente, veramente complicata, in cui Kenyatta è stato appunto rieletto di nuovo presidente tra le polemiche, ma sebbene la decisione è stata annunciata dal presidente della commissione elettorale, ma ha destato perplessità, per usare un eufemismo, ancora più forti di quelli hanno portato all'annullamento delle precedenti. In particolare sembra difficilmente sostenibile la legalità della proclamazione vincitore quando in 25 collegi elettorali e per di più un'intera regione, la Tenianza, che è la roccaforte delle opposizioni, le operazioni voto non si sono svolte. Così anche il numero dei votanti e le preferenze dei vincitori sono controverse. I voti aggiudicati a Kenyatta sono aumentati a 7.400.000, il 90% circa di quelli aveva ricevuto l'8 agosto scorso, cioè no la prima tornata elettorale, quando ci dovevano appunto essere le elezioni, poi a sua volta sono state annullate e poi successivamente ripetute appunto questo 26 ottobre. E niente, ci sono state non soltanto illegalità, irregolarità, ma anche scontri tra gli appartenenti, diciamo, i sostenitori dell'opposizione, in questo caso di Odinga, e la polizia, in particolar modo in una township di Nairobi, che si sono chiaramente, come in tutti i paesi del mondo in cui interviene la polizia, si sono risolte con alcuni morti, 4-5 morti, perché il numero non è esatto, o meglio non è possibile capire se il quinto purtroppo deceduto era, diciamo, un sostenitore di Odinga, oppure era diciamo il decesso è stato avvenuto così per cause indipendenti, diciamo, da una manifestazione in seguito appunto che contestavano la regolarità delle elezioni. E quindi questo è il processo difficile in cui vedremo appunto gli sviluppi successivi. C'è da dire che l'ONU e le Nazioni Unite hanno chiesto sia a Kenyatta il risultato vincitore, diciamo, seppur in una forma molto contestata e molto ambigua, che Odinga, che era lo sfidante, è stato chiesto a ambedue di diciamo trovare una sorta di conciliazione. Ecco, sta di fatto che, per quanto ci riguarda, né Kenyatta né Odinga sono, o dovrebbero, potrebbero essere i nostri presidenti, perché ambedue, diciamo, fanno parte di gruppi di potere diversi, però appunto di gruppi di potere, anche se chiaramente l'opposizione in questo caso è quella che ha raccolto di più i favori, diciamo, della parte più povera della popolazione keniana. Passiamo adesso ad un'altra artista keniana, Nyota Ndogo, nata a Mombasa, da piccola lavorava già come domestica. Suo padre era invece un musicista, aveva una band locale che suonava negli hotel, eccetera. Lei si è dedicata alla musica ed è stata il suo colpo di fulmine con la musica, è stato ispirato da un gruppo hip hop keniano. Non fa hip hop lei, però, perché quando parlavamo prima della musica in Kenya, la parte della costa e Zanzibar hanno effettivamente anche radici culturali un po' diverse, perché hanno avuto, essendo sulla costa, contatti culturali e anche peggiori, insomma, con altre culture, specialmente quelle arabe, e quindi la musica che fanno tiene più conto di queste radici. Questa musica si chiama Tarab, quindi lei si rifà più che alla musica dell'interno del Kenya, a questa tradizione, il Tarab. Di lei ascoltiamo Cereko. Cereko, cereko, wali ya nini? chereko chereko waliani ni we chereko chereko waliani chereko chereko waliani ni ulichokitaka umeshakipata sasa tulia waliokupatia mashauri sasa wameshakimbia sasa umebaki unala kufanya useme nini kawaida mtu wapanda chombicho havuna choo chereko chereko walia nini chereko chereko walia nini chereko chereko walia nini chereko chereko walia nini tabia uliokuwa nayo nadhani nilikukanya uliona kama mimi nakuonea uwivu hakuna siku ambayo ilipita bila kusema lakini ilikuwa kama napigia mbuzi gita chereko chereko walia nini chereko chereko walia nini chereko chereko walia nini chereko chereko walia nini kutembea barabarani usiku nilikukanya kutembea na marafiki wabaya nilikukataza yaliyokufika hakuna ambaye anakujali ulichokipata mshukuru Mungu ndio dawa yake chereko chereko walia nini chereko chereko walia nini chereko chereko walia nini chereko chereko walia nini chereko chereko walia nini chereko chereko walia nini chereko chereko walia nini chereko chereko walia nini chereko chereko walia nini chereko chereko walia nini chereko chereko walia nini chereko chereko walia nini nell'elenco delle maggiori minacce per il nostro pianeta c'è anche la perdita di elefanti e rinoceronti. Tra il 2002 e il 2011 è stato perso circa il 62% degli elefanti. Naturalmente dovuto alla massiccia richiesta di avorio, soprattutto dalla Cina, che stimola l'uccisione illegale di questi mammiferi. Le corna di rinoceronte invece fanno gola ai bracconieri perché sempre in Asia sono simbolo di status sociale e avrebbero qualità antitumorali, cosa naturalmente falsa, ma questo però non impedisce che vengano uccisi per venderla. Pensate che le corna di rinoceronte vengono vendute a $60,000 al chilo. Ci sono diversi siti ricchi di informazione su questo problema dei bracconieri. Allora, i bracconieri non pensate che siano come potevano essere tipo 20 anni fa, gente povera che uccide un elefante per sfamare la propria famiglia. Adesso sono ex soldati, mercenari, armati fino ai denti, molto più della controparte che cerca invece di salvaguardare la fauna e usano mezzi tipo satellite, tutte queste cose per riuscire ad ucciderli. Nell'Africa, Sudafrica, diversi questi paesi stanno cercando di unire le forze. Per esempio, una delle cose che stanno facendo è fare i parchi transfrontalieri, cioè che non tengono conto del che attraversano le frontiere, sia per gli animali che non sono così, non hanno barriere nello spostamento, ma anche per unire le forze contro queste persone, questi bracconieri. I bracconieri non sparano a vista, non è che scappano così. Noi, quando siamo stati l'ultima volta in Sudafrica, c'era un forte risveglio, specialmente per quanto riguarda i rinoceronti, che veramente sono in pericolo. E per esempio abbiamo conosciuto questi di Rhino Resource, che è uno dei siti più ricchi di informazione, e stavano facendo proprio una campagna, e loro appunto ci avevano detto che i bracconieri non è che scappavano quando vedevano arrivare i ranger, gli sparavano direttamente, tant'è che i ranger in Sudafrica, per esempio, quando siamo andati appunto l'ultima volta, abbiamo visto che essere un ranger è diventato difficile, però sei considerato una persona importante a farlo, perché effettivamente rischi la vita. Quindi controllate anche questi siti che vi fanno vedere. Ci sono mappe, eccetera. Per esempio, 96 Elephant, che prende il nome proprio dai 96 elefanti che vengono uccisi ogni giorno in Africa, per un totale di 35.000 solo nel 2016. Oppure, per esempio, ci sono anche Hospetaker Center, che ha c'è la possibilità di seguire le tracce dei cacciatori di frodo, di modo da potergli denunciare. Oppure tipo Bloody Ivory, che coniuga l'attivismo, tipo c'è la possibilità di fermare petizioni online, eccetera, con l'informazione. Dateci un'occhiata, perché è una cosa che effettivamente merita attenzione. Sì, è proprio così. A differenza di quello che si può pensare, o comunque a differenza di quello che magari succedeva fino a 30-40 anni fa, i bracconieri non sono più la popolazione, perché la popolazione ha capito che la conservazione della fauna va di pari passo con la ricchezza culturale, ambientale, sociale del paese, e quindi i guadagni, quello che dà sostentamento da un punto di vista faunistico alla popolazione, non è il bracconaggio, ma è la conservazione del patrimonio faunistico. Tant'è che appunto questi rangers, che in realtà sostanzialmente non pensiamo che siano i rangers come negli Stati Uniti d'America, sono semplicemente quelli che si impegnano e lavorano contro i bracconieri. È il lavoro, uno dei lavori principali, per le popolazioni, o comunque quelli da cui si ottiene maggior reddito, per le popolazioni che vivono a ridosso, nelle vicinanze dei parchi nazionali. Mentre invece, d'altro canto, dall'altra parte, i bracconieri sostanzialmente sono appunto dei mercenari al soldo dei ricchi, sostanzialmente. Quindi non c'è più il bracconaggio, da sé, sono semplicemente dei mercenari che su commissione uccidono elefanti in particolare e rinoceronti in altrettanta maniera particolare, perché a cui tra l'altro a loro viene dato molto meno di quanto in realtà poi viene venduto le zanne d'avorio e rinoceronte, scusate, d'elefante o i corni di rinoceronte. C'è per esempio, scusate, poi finiamo, il presidente del Gabon, paese che sta pagando veramente un prezzo altissimo dal punto di vista faunistico, ha recentemente minacciato di cancellare i contratti con la Cina per vedere di riuscire in qualche modo a fermare questo massacro. E ritorniamo ai suoni dell'Africa, in questo caso appunto per questa 34esima puntata di Uru, ai suoni Kenya, e continuiamo ad ascoltare i suoni della costa keniana, appunto la costa che parte dalla Somalia, poi giù fino al Mozambico, fino alla parte nord della costa nord del Sudafrica, che è stata ed è tuttora pesantemente influenzata dalla musica, dalla cultura araba o comunque proveniente dall'oceano indiano. E appunto, come detto precedentemente, Tarab o Tarabi, come detto anche in altri, a seconda delle zone in cui è suonato, in cui è conosciuto, è appunto questo genere musicale tradizionale della, in particolare della Tanzania e del Kenya, che è nato tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX a Zanzibar, e che poi appunto gradualmente si è diffuso su tutta la costa dell'Africa orientale, Swahili, e quindi appunto, come abbiamo detto, la Somalia e Mozambico. E lo stile Tarab fonde elementi provenienti dalla tradizione musicale di diverse culture, in particolare dell'araba, con cui il mondo Swahili, ricordiamo lo Swahili è la lingua ufficiale del Kenya e anche della Tanzania, dell'Uganda, ed è parlato anche nel nord del Mozambico e nel sud della Somalia. E appunto lo Swahili, il mondo Swahili è stato storicamente a contatto, e quindi Africa orientale, ma anche Asia, Nord Africa, Medio Oriente ed Europa, e quindi uno stile suo, insomma, e di cui vi facciamo ascoltare Tueta, che è un pezzo di Zura Svalè e Muhambaza Party. Tetasini pigeza yowe kwanza tetasini pigeza yowe Kwa hakika hili ni kuulizalo hakika hili, kwa hakika hili ni kuulizalo. Ricordiamo che state sempre all'ascolto di Uru, suoni, musica e notizie a continente africano. Lo state ascoltando in streaming dal sito wombat.noblogs.org, che è appunto il sito di Radio Wombat, di cui Uru è una delle tante trasmissioni. Profilo Twitter per ascoltare le news, per sapere le news di Radio Wombat, twitter.com, Radio Wombat FI. La mail posta wombat@insiberia.net. Ricordiamo anche che Uru ha un proprio profilo Twitter, Uru_RW, che è appunto l'iniziale di Radio Wombat. E per gli appuntamenti della settimana sono due appuntamenti per venerdì prossimo, quindi li diamo ora perché appunto venerdì prossimo siamo in trasmissione la sera al centro sociale autogestito nel Seme, sono in via di Bellagio, che tradizionale appuntamento del venerdì, ogni venerdì, o anzi di un venerdì al mese, con i Breakers. I Breakers fanno parte, che si allenano, diciamo, nella palestra popolare San Pietrino all'interno del centro sociale Stemmers. Solitamente ogni ultimo venerdì del mese fanno questa serata con la propria cultura, la propria musica, però a cui tutti sono invitati, e quindi il loro cipher, questo cerchio appunto che si forma intorno ai Breakers, che appunto entrano di volta in volta nel cerchio per far vedere, diciamo, o per comunque portare avanti questa musica, questa danza, chiamiamola così, questo ballo, al suono della musica hip hop. Mentre invece dalla mattina inizia lo sciopero di 24 ore proclamato per tutte le categorie pubbliche e private, proclamato dalla Confederazione Sindacale COBAS, Unione Sindacale di Base, Unicobas, che per quanto riguarda Firenze vedono un corteo che parte la mattina appunto alle 9.30, ecco, da Piazza Indipendenza a Firenze. E uno sciopero che, secondo quanto dichiarato in un loro comunicato dai COBAS, comunque da tutti coloro che hanno promosso lo sciopero, si è reso necessario contro le politiche economiche e sociali del governo italiano e dell'Unione Europea per affermare il diritto ai salari, al reddito e alla pensione, per veri rinnovi contrattuali, per il rilancio dell'occupazione, la cancellazione della precarietà e di ogni forma di sfruttamento, per la cancellazione della legge 107 nella scuola, per la difesa e il miglioramento della scuola e della sanità pubblica e in generale per i servizi sociali pubblici e gratuiti, e quindi contro le privatizzazioni delle aziende strategiche per il paese, e chiaramente convocata anche per le nuove politiche sociali in tema di diritto all'abitare, di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, di contrasto alla xenofobia e razzismo. Quindi appuntamento, oltre allo sciopero generale di 24 ore, appuntamento in Piazza Indipendenza la mattina alle 9 per questo corteo per quanto riguarda Firenze, poi chiaramente in diverse, molte altre città d'Italia, cortei locali. Adesso passiamo invece, ci spostiamo dalla costa verso l'interno, ascoltiamo Henry Macobi, grande chitarrista, influenzato dalla musica congolese, dal suo gusto congolese. Lui è nato a Kakamega in Kenya, di lui ascoltiamo Likuta Bibi. Thank you. Beh sì, parliamo degli Shango Bones, degli ossi di Shango. E per parlarne ci prendiamo spunto da un articolo di Antonella, sempre di Antonella Sinopoli, che appunto ha scritto questo articolo, i Shango Bones, quando gli africani inventarono la calcolatrice, e che continua: tra i tanti oggetti preziosi, opere d'arte e manufatti che l'Europa ha sottratto all'Africa, ce ne sono alcuni che mostrano quanto le civiltà non solo precoloniali ma addirittura preistoriche avessero gradi di sviluppo, si sta parlando dell'Africa appunto, avessero gradi di sviluppo notevolmente avanzati, addirittura possono aver anticipato di millenni certe forme di conoscenza, o perlomeno che siano state sviluppate autonomamente senza diciamo attendere l'arrivo dei bianchi, della colonizzazione. E una di queste è appunto questo Shango Bone, che è uno strumento considerato uno dei primi, se non la prima arcaica forma di calcolatrice numerica ideata dall'uomo. E sono ossi, bones appunto, visto che sono due ossa di babbuino risalente al Paleolitico superiore, 20-18.000 anni prima di Cristo, ritrovate da un belga durante una campagna di esplorazione in quello che appunto era allora il Congo belga, stiamo parlando più o meno del 1960, e che oggi appunto è la Repubblica Democratica del Congo, e che appunto di questi, come sempre, come molto spesso succede in queste situazioni, sono state sottaciute diciamo, il ritrovamento di questi di queste ossa, e quindi tutto quello a cui queste ossa fanno riferimento e appunto da cui si può estrapolare il fatto che queste ossa sono una sorta di calcolatrice. E adesso si trova al Museo Belga, tanto per cambiare, sono il saccheggio diciamo di queste opere, sia vecchie diciamo che nuove, e sono al Real Museo di Scienze Naturali di Bruxelles. Gli Shango Bones per un decennio si è creduto che si tratti della più antica attestazione di calcoli matematici aiutati da uno strumento che sono una serie di incisioni raggruppate in tre colonne. Per chi tra l'altro è interessato a approfondire l'uso e il sistema dello strumento, può leggerlo su un sito web che è http://originalpeople.org/shango-bone-world-oldest-math, quindi per matematica, /tool/, e probabilmente noi l'abbiamo visto direttamente qui, ma probabilmente mettendo Shango Bones si arriva prima o poi a questa pagina. E tra le poste degli studiosi vengono citate quelle di Alexander Marshak, secondo il quale le ossa rappresentano il più antico calendario lunare, oltre a essere una sorta di calcolatrice, il più antico calendario lunare sulla Terra. E Claudia Zaslavsky, una etnomatematica, ritiene che l'autore, anzi probabilmente le autrici di Shango Bones, devono essere appunto delle donne che con questi calcoli riuscivano a capire con questo strumento rudimentale ma comunque efficace le fasi lunari e il ciclo mestruale. Le bombons sono stati trovati altri, che chiaramente le bombe è il posto dove è stata trovata la prima volta, ma comunque anche quelli trovati successivamente vengono chiamati con questo nome, sono stati trovati nello Svazia. In questo caso si tratta di un perone di babbuino, uno solo in questo caso, è risalente a 35.000 anni fa, in cui appunto sono incise queste tacche che fanno pensare simili, molto simili a quelle trovate su un osso di questi due Shango Bones, che in questo caso appunto trovate il Shango, fanno pensare ci siano altre ossa non trovate che portano altre tacche che messe insieme formano appunto questa sorta di calcolatrice. Ritorniamo a parlare della musica keniota, e in particolare appunto in differenza del Taarab della costa, all'interno soprattutto del Kenya, uno dei tipi musicali più famosi e più utilizzati è il benga, e cioè un genere musicale che unisce elementi del Quela e del Sucus congolese. E qui vi ricordiamo che sia il Kenya che la Tanzania da sempre hanno avuto rapporti con la parte del Congo che si affaccia da quella parte, perché naturalmente condividono la lingua, capito? Quindi la parte, diciamo, del Lago Vittoria, perché condividono la lingua. Tant'è che quando c'è stato il periodo della schiavitù, uno dei passaggi per portare gli schiavi via dal Congo era proprio il passaggio Lago Vittoria, scendevano e facevano Kenya o Tanzania fino alla costa e da lì partivano con le navi. Quindi il Benga è rimasto a lungo uno dei generi più importanti dell'interno del Kenya, finché si è incrociato con il pop, e quindi è diventato un po' più leggero, diciamo, come musica. E quindi dopo gli anni 70 si è rinnovato unendo questi due generi musicali. Vi facciamo ascoltare ora Samba Mapangala con Vunja Mifupa, che per farvi ascoltare proprio questo tipo di musica. Thank you. questo era il nostro ultimo pezzo, vi lasciamo con la nostra sigla, ci risentiamo venerdì prossimo alle 9.30, alle 21.30 per la diretta e mi raccomando controllate sempre il sito di Wombat, wombat.noblogs.org, il palinsesto perché ci sono nuove trasmissioni e quindi potrete anche ascoltare nuove cose. E, ciao a tutte e tutte, alla prossima.